Oggi abbiamo fatto una grande manifestazione dal nostro punto di vista, nella quale si è espressa tutta la soggettività transfemminista queer, assieme ai movimenti della città e non solo. Quello che si è dimostrato è che c'è una richiesta e un bisogno di spazi di auto-organizzazione transfemminista queer. Evidentemente in questa città, ancora una volta, hanno avuto la dimostrazione che dal punto di vista istituzionale non c'è nessuna risposta, la questura procede nell'applicazione della legge e non ci sono margini, diciamo, di appropriazione di spazi politici. In questo momento stiamo andando in Piazza Maggiore, dove concluderemo il corteo. Ovviamente noi pensiamo che quello che fa paura non è che le frange facciano una festa illegale o facciano rumore fino a tardi, evidentemente fa paura la capacità di auto-organizzazione. Pensiamo che questo sia solo l'inizio e l'apertura di un discorso politico che punta a riprendersi spazio nella città.